e mi sporco al di là del ponte, dove lascio cadere tutto, le bestemmie della gente e questa poca umanità, diventata tutta un lutto di un futuro ancor più incerto che memoria più non ha. E guardo con occhi bassi il tremare delle mie mani e vedo davanti ai giorni il freddo dei poteri che ammazza la vita ovunque, che consacra la guerra al niente di un mondo nuovo che non va. E poi ancora il denaro, divenuto per forza un valore, dentro una società senza alcuna morale, dove corpi investiti pregiati sembrano dirsi meschine opinioni, dove pistole e fucili sparano per gli altari. E mi sporco al di là del ponte, dove tengo ferme le ali, dove intere generazioni hanno perso i veri ideali, dove scorre l'acqua più sporca e la vita li rassomiglia, quando una donna piange il suo amore alla consegna di una medaglia. E mi sporca al di là del ponte, illuso e senza certezza, in un diniego gemito, aspetto, non provo più alcun rispetto. Mentre l'era dei dinosauri spettegola sugli operai, dove neppure Cristo avrebbe mai scommesso. E mi sporco al di là del ponte, libero verso il vento, tacito, informe e afflitto di questo tempo che porta delitto. E mi sporco al di là del ponte a parlare di speranza, di un sentimento libertario che nel mio cuore avanza.